24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il naufragio della nave Costa Concordia. 6 morti mentre caos sul numero dei dispersi. Tra questi 12 sarebbero tedeschi e quanto risulta l'organo di polizia criminale della Baviera LKA. Secondo il numero 1 di Costa Deutschland i dispersi sono tutti di età tra i 50 e i 70 anni. Il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle chiede delucidazioni sulle cause e le conseguenze dell'incidente. Bisogna che chi è responsabile dell'accaduto si assuma le proprie responsabilità, ha detto da Berlino. Ieri a Genova la conferenza stampa della D di Costa Crociere Foschi. Non possiamo negare, purtroppo, un errore umano che nella vicenda ha identificato o si è identificata con questo tragico incidente. La voce rotta e stentata per la forte tensione, l'amministratore delegato e presidente di Costa Crociere Pierluigi Foschi ribadisce più volte l'errore umano del comandante. Il punto fermo per la società armatrice genovese rispetto alla tragedia del naufragio della Costa Concordia. Foschi indica subito la prima emergenza, assistere tutte le persone coinvolte nell'incidente, passeggeri e personale di bordo. La seconda, la tutela ambientale dell'area dove è avvenuto il naufragio, l'isola del Giglio. E infine la terza emergenza è quella di rimuovere il relitto. E anche se dice che l'azienda darà l'assistenza legale necessaria al comandante, Foschi pensa anche ai 24.000 dipendenti e ai danni quantificabili al momento in 93 milioni di dollari e parla di Costa Crociere come parte lesa. Comunque, secondo Foschi, al centro di tutto c'è la manovra del comandante Schettino. Non approvata né autorizzata né che la Costa Crociere era a conoscenza dal comando nave. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Il premier Mario Monti ha chiesto alla Germania e ad altri paesi creditori di fare di più per aiutare l'Italia a ridurre i costi di finanziamento. Monti, in un'intervista al Financial Times, ha messo in guardia che ci potrebbe essere forte reazione negativa fra gli elettori dei paesi periferici dell'area euro se non sarà fatto. Intanto il lavoro del premier italiano è stato definito impressionante dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, che ha promosso l'azione italiana all'indomani del downgrade di Standard & Poor's. The extraordinary work President Monti and Italy is carrying out. Un lavoro impressionante. Con le parole del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, Monti incassa l'appoggio pieno dell'Europa all'indomani del downgrade di Standard & Poor's. Le agenzie di rating non capiscono i meccanismi e ci accusano di lentezza, spiega a nome di Bruxelles, ma l'agenda italiana è l'agenda europea. L'Italia sta andando nella giusta direzione. Un appoggio che è insieme un messaggio al mercato. Rompuy ha assicurato che a fine mese ci sarà l'accordo sul nuovo trattato Fiscal Compact. Entrerà in vigore a luglio 2012, prima del previsto. Poi l'invito al premier italiano ad andare avanti sulla via delle liberalizzazioni, perché la loro adozione, dice senza mezzi termini, è cruciale per la fiducia dei mercati. Un invito che il presidente Monti afferra al volo, ma, commentando il downgrade, ai partner europei non risparmia una stoccata. Per quanto riguarda l'Italia, si sottolinea con molta forza, devo dire, la positività dell'azione in corso da parte del governo italiano e si addita, d'altra parte, la insufficienza della governance dell'Eurozona. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È andata bene per i principali listini europei che hanno ignorato il taglio di Standard & Poor's ai rating di 9 paesi dell'Eurozona, tra cui Francia e Italia. Fiammata finale per la borsa di Milano, migliore d'Europa, che ieri ha chiuso sui massimi di giornata, più 1,4%. Francoforte invece ha recuperato l'1,2%, Parigi lo 0,9% e Londra lo 0,37%. A Piazza Affari la migliore ST, più 7%, che cavalca l'ottimo andamento del settore high-tech europeo. Molto bene anche la Galassia Fiat, guidata da Exor, più 6%, e dall'Auto, più 7%, che recupera quota 4 euro. Realizzi sul Monte Paschi, meno 2,9%, A2A, meno 1,3% e Unipol, meno 5%, che sconta il possibile aumento di capitale per rilevare Fonsai. Intanto Carnival crolla sulla borsa di Londra dopo il drammatico naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Il titolo, dopo essere arrivato a perdere oltre il 23%, ha chiuso a meno 16,4%. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo in una situazione gravissima, lo ha detto in serata Mario Draghi nelle vesti di presidente dell'Autorità Europea per i Rischi Sistemici in audizione davanti alla Commissione Parlamentare Economico-Finanziaria. Trichet, ha ricordato Draghi, aveva parlato di dimensioni sistemiche, ma da allora la situazione è peggiorata. Draghi ha poi lanciato un appello. È vitale, ha detto, che le decisioni prese dai leader europei sui fondi salva stati siano attuate tempestivamente e completamente. Il presidente della BCE ha parlato anche dell'agenzia di rating. Bisognerebbe imparare a vivere senza, detto, quantomeno imparare a fare meno affidamento sui loro giudizi. A riguardo si è espresso anche il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn. Non ci sono istituti di ricerca imparziali, ha detto. Secondo l'ex presidente del Consiglio italiano Romano Prodi, sull'agenzia di rating dovrebbe intervenire il Fondo monetario. Sentiamo Prodi al microfono di Cristina Carpinelli. Che cosa ne sanno i ragazzi della Standard & Poor's sulle finezze della politica italiana? Voglio dire, io li ho incontrati tante volte, i bravi funzionari di queste società di rating, ma mi toccava spiegargli le cose, ecco, non è che ci fossero dei raffinati analisti politici, cioè noi siamo in mano a delle persone che prima di tutto hanno interessi precisi, comprensibilissimi, intendiamoci, e in secondo luogo hanno competenze assolutamente parziali, cioè qui il problema è un problema serio, ci sono tre agenzie, tutte brave, dica quello che vuole, insomma, però che hanno azionisti precisi, rispondono a un ambiente e un clima ben preciso e qui dominano il nostro mercato finanziario, i giudizi sugli stati oltre che sulle imprese e c'è una reazione unitariamente negativa, ma non c'è un'azione per pareggiare, per bilanciare questa influenza. Io credo che i rimedi ci siano, cioè primo aprire il mercato, e allora che qualche struttura europea o cinese o turca o quello che vuole si mette nel mercato, ma questo non basta, e poi occorre che le strutture sopranazionali, cominciando dal Fondo Monetario Internazionale, si rendono conto che non possiamo lasciare dare i voti soltanto a tre imprese. Andiamo in Ungheria. Cambio di passo a Budapest. Ora il governo magiaro punta sulla trattativa a tutto campo per superare la crisi economica. Viktor Orban in punta di fioretto. Chiusa la fase dello scontro con Europa FMI, l'Ungheria si impegna nella trattativa a tutto campo, che è poi quello che Bruxelles chiede. Protagonista il ministro degli esteri di Budapest, János Martoni, fedelissimo del premier e uomo di esperienza. E allora parla il ministro degli esteri, si rivolge all'FMI per dire che sì, vogliamo un accordo con il fondo e con l'Europa su un aiuto finanziario e siamo pronti a cambiare le leggi controverse. Poi aggiunge: aspettiamo solo proposte concrete. L'Ungheria dovrà probabilmente ritirare le tasse speciali su banche multinazionali, introdurre ulteriori misure di austerità per migliorare i conti pubblici, senza più ricorrere a misure come la nazionalizzazione dei fondi pensione privati. Secondo Martoni, la legge sulla banca centrale può essere discussa, così come quelle che riformano l'autonomia dell'autorità per la protezione dei dati e la modifica dell'età pensionabile dei magistrati. Insomma, tutto si può discutere, è il messaggio di Buda, perché respinge le critiche formulate sul carattere autoritario del governo Orban, protagonista di una riscrittura radicale della legge fondamentale grazie alla maggioranza blindata che ha conquistato nell'aprile del 2010. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. In Romania continua la protesta contro governo e capo dello Stato. A Bucarest nuovi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Le proteste contro le misure di austerità e in particolare contro la riforma sanitaria che prevedeva vaste privatizzazioni erano cominciate la scorsa settimana. Secondo le forze dell'ordine, già sabato oltre 4.000 romeni erano scesi in strada in circa 20 città del paese. A Bucarest gli agenti hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni contro il lancio di pietre da parte di alcuni manifestanti. Milano come Londra e Stoccolma. Da ieri, nel capoluogo lombardo, il debutto della cosiddetta Area C, che prevede il pagamento di 5 euro per l'ingresso in auto in centro. Soddisfatto l'assessore comunale alla mobilità, Pierfrancesco Maran. Lo sentiamo al microfono di Paolo Panceri. Non c'è stato nessuna criticità né nel traffico fuori dall'Area C né sui mezzi pubblici. Ovviamente questo non significa che nei prossimi giorni non si possono rilevare criticità, questo è un provvedimento ovviamente molto importante, però è la dimostrazione che si può fare, si può immaginare una città